questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. In Italia i bambini non fanno O, ma questo lo sapevamo già, tantomeno allo stadio. Franco Piantanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Dicono anche che su questo campionato stia già soffiando il vento del nord. No, ma non abbiamo bisogno di parlare di questo perché tutto il mondo l'ha visto, allora non bisogna parlare di più. Il problema è che abbiamo la sensazione che quasi sempre è lo stesso, non so come dire, è meglio non dire niente. Janic, Castan ci mette la testa, poi Maicon, violentissima botta, Castan e Bradley, fuori gioco, si è alzata la bandierina, la Roma protesta però per un possibile tocco di mano. Canini prende la palla con la mano, questo è calcio di rigore. Provo a dirlo io? C'è la sensazione che nel dubbio non fischino per voi? Ah sì, è così che possiamo dire, allora sì. Fate sentire la vostra voce perché siete sempre tutti convocati, ovviamente convocato d'ufficio per Luigi Pardo. Ciao Pier. Come va? Benissimo. Tu? Bene, bene. C'è il sole. C'è il sole. Pierluigi, ti licenzio. Me lo porto. No, però insomma. È il tuo incubo questo, eh? Ti sveglia la mattina e senti la voce. Pierluigi, ti licenzio. Ti licenzio. La Roma si lamenta in modo sempre meno velato, eh? Beh, sì, anche perché insomma gli episodi aumentano, diciamo. Il dossier aumenta, anche se non metterci anche tu il dossier. No, il dossier appunto tra mille virgolette, anche se va ricordato, se non è per onestà, che nella mia parte della stagione c'erano state delle situazioni in qualche modo diverse, no? Perché penso al rigore del 2-0 per Roma-Napoli. Io penso a Roma-Napoli e a Inter-Roma come due partite dove la Roma era già in vantaggio, dove però sicuramente ha avuto due situazioni in qualche modo positive, favorevoli da parte degli arbitri. Quello che mi pare aver capito si comincia ad avvertire a Roma da parte di alcuni, non di tutti, è la sensazione che una volta che la squadra è decollata ed è diventata realmente pericolosa e testa alla classifica, improvvisamente è cambiato il segno degli episodi. Però questo è un terreno. Sì, ma è cambiata anche la Roma, Pier, perché non dimentichiamo questo. Questo è l'unico paese al mondo, poi la leggo, perché poi abbiamo un ospite cui leggerò la classifica. È l'unico paese al mondo in cui abbiamo una classifica al netto degli errori arbitrali, come se poi i rigori venissero segnati, le partite venissero vinte. Cioè, guarda, il senso de pennica sulle moviole. Il senso de pennica aumenta. Il mio personale aumenta, anche perché sono discorsi che diventano improvvisamente molto astratti. Però guarda, io da piccolo mi addormentavo sempre la domenica sportiva quando c'era la moviola. Era molto peggio di dormire. Della Formula 1, l'ho vista grossa, lo so, è molto amato, però io veramente ho delle difficoltà proprio di gestione sulla Formula 1. No, anche sulla moviola. Sulla moviola anche, no, però c'è una cosa da dire: il calcio è episodio, soprattutto quando le differenze sono minime, soprattutto come in questo momento quando la Roma non è brillante come due mesi fa, che magari due mesi fa la partita con il Sassuolo la vinceva, quell'episodio al 94esimo non c'era, la partita col Torino la vinceva molto più facilmente e ieri pure, quindi però è anche vero che insomma poi alla fine gli episodi del calcio non possono fare la differenza. Quindi... Ma certo, l'ha fatta anche Llorente e questo non c'entra nulla con arbitri, moviole e cose del genere. Quella è la mentalità, è semplicemente un gran giocatore. Squadra in salute con il vento favorevole, ma non parlo di vento arbitrale o queste cose, semplicemente la Juventus è una squadra che cui in questo momento gira bene, non la Roma. Ieri onestamente hai detto bene tu, non bene a Bergamo fino al gol beccato, poi rabbia e muscoli, non mi sembra una squadra in calo fisico ma una squadra che in questo momento fa fatica a nascondere i difetti della sua atipicità. Sì, sì, ma è vero, è vero, è vero, è un'analisi ovvia questa, giusta e condivisibile. La Roma non è quella di due mesi fa, però insomma la Roma non è quella di due mesi fa, però il tifoso della Roma ti dice pure tanto dammi quel rigore e poi magari, nel senso che non è che tutte le volte devi essere brillante per vincere. No, no, ma certo, la Juventus ieri sera non è stata, anzi è stata molto l'Udinese che è stata bravissima a interpretare quella partita. Come lo vedi il matrimonio di interessi a Milanello? Ma lo vedo, allora io lo vedo complicato. Solo tu, quasi no, nessuno. È chiaro quasi che è un compromesso, ed è chiaro che è un compromesso storico, complica le larghe intese. Ecco, anche nel Milan ci sono le larghe intese. Però dico anche, come dicevo ieri pomeriggio, che insomma, se si riesce a ristabilire un minimo di relazione positiva fra i due soggetti in questione, poi è un matrimonio che nelle deleghe teoricamente può anche funzionare, perché nel momento nel quale tu dividi la parte strettamente calcistico-tecnica dalla parte invece di sviluppo del marchio e di business, puoi anche pensare di lavorare insieme. La sensazione è che ci sarà alla fine della stagione, ne rimarrà soltanto uno e probabilmente certo sarà Barbara Berlusconi. Però attenzione, perché io mi ricordo dopo il famoso pranzo ad Arcore c'era chi diceva è finita per Galliani, aspetterei, aspetterei. Poi l'altro giorno c'è stato questo comunicato. Allora, secondo me questo è un governo tecnico, Pier. Questo è un governo tecnico, è inutile che mi parlano di 4 anni. Questo è un sì, governo ma il tecnico. Calcio, il calcio è una materia liquida. È una materia liquida, però non esiste che una è a salvaguardia della cassa e l'altro è a salvaguardia dell'aspetto sportivo, perché le due cose fatalmente si mescoleranno. Perché un giorno Galliani dovrà, a chi chiede i soldi per fare mercato? Vada Barbara, scusa, quanto mi dai per fare mercato? Ma guarda, certo. 6.500 lire. Ah, beh, con questi soldi non riesco però, a comprare però i giocatori. Voglio dirti che non è il problema, da quello che abbiamo capito, è il rapporto fra i due, no? Non a caso l'altro giorno è stata sottolineata come una notizia, dopo la presa di posizione da parte di Berlusconi, questa telefonata molto cordiale che c'è stata fra Adriano Galliani e Barbara Berlusconi. Se sia vero o no non lo sappiamo, però quello che è passato è questo, è che evidentemente di fronte a una presa di posizione molto chiara da parte di Silvio, che ha detto adesso che vi piacciate o no dovete lavorare insieme per il bene del Milan, sì, i due soggetti almeno al giorno zero hanno provato corretto, a dire va bene, certo, proviamoci, poi e questo ci diranno, non lo sappiamo. Tra poco torniamo a parlare di tutto questo e di molto altro, compresa una delle scene della settimana, della domenica, no? Quando in tribuna a San Siro, lo ricordava prima Roberto Scaltritti, c'è cioè Moratti che si sfrega le mani, no? Più per la tensione che per il freddo, e Toir che si sfila i guanti e dice: li vuoi, presidente, l'ex presidente? No, no, grazie, non ne ho bisogno. Sai quanto costano quei guanti? 800-24-0024, numero verde, Pierluigi Pardo con noi, e vi aspettiamo dopo il traffico. Vincere non è facile, è rivincere che è difficilissimo, e lui ha vinto tanto, quindi grandissimo rispetto per la persona, per il dirigente, perché ha fatto grandissime cose. Tutti convocati. As a president, yes. I was here a couple of times long time ago, but again as supporters. It's a different feeling. You know, a lot more pressure. Questo era ovviamente il neo presidente dell'Inter Toir, che non ha dato cui Moratti ha rifiutato i guanti, insomma. 800-24-0024, il lunedì la scatola dei messaggi SMS 349-238-6666 diventa Rubbish Box, no? Pierluigi Pardo. Poi mi invitano a leggere i messaggi, ma come faccio a leggere sta roba, ragazzi? Ma abbiate pazienza, come faccio a leggere questa? Ma no, ma che perifrasi? Ci metto 2 ore a fare perifrasi di questa immondizia. Tanto in Italia i bambini non fanno, lo sappiamo, no? Ma neanche gli ascoltatori. Vabbè, la cosa più saggia l'ha detta, almeno che io condivido maggiormente, l'ha detta Marco Lodoli, scrittore e giornalista. Non possiamo illuderci che lo stadio diventi un luogo di totale età dell'innocenza solo perché nelle curve ci sono dei bambini. Ormai c'è tutta una predisposizione mentale a certi atteggiamenti, un immaginario collettivo dominante, il rimedio: più sport praticato e meno guardato dal divano. Questo certo, perché chi ha la cultura dello sport praticato, quindi chi sa che dietro al risultato c'è fatica, lavoro, sudore, paura. Senti, Pier, facciamo outing. Facciamo outing. Allora, io da ragazzino andavo allo stadio e gridavo Cori Beceri. Ma no, ma Cori Beceri non so, tu lo facevi? Io lo dichiaro. Guarda, io a 15 Beceri, anni. Non vivendo di grandi passioni, non ho mai fatto grandi Cori Beceri. Però da ragazzino ce le avevo. Però poi, ti dico che non me la sento, cioè, alla fine di tutto, di fronte a quelle immagini dello stadio, allora abbiamo visto i 12.000 bambini, abbiamo visto il cappellino dello sponsor, abbiamo sentito merda sul rinvio dell'avversario. Scusate, chiedo scusa a chi è all'ascolto, sulla Nogaro. Compardon della Stava, sì, come dice Maradona. Alla fine bisogna arrivare a una sintesi, è più il positivo o più il negativo? Secondo me è più il positivo. Il positivo è aver comunque riempito lo stadio di 12.000 bambini che ieri si sono goduti una bellissima giornata. Sì. Poi certo, quella cosa lì ti dà molto l'idea, no? Sì. Sì, basta che non mi dicano che lo stadio è un luogo per famiglia, che deve tornare come era prima, perché lo stadio è un luogo per famiglia, non è mai stato. Ma attenzione però, perché anche su questo, insomma, non è dire quella parola di 5 lettere. Cioè, gli stadi inglesi, che sono stadi in questo momento civili, assolutamente civili, non è che sono stadi dove l'avversario non viene insultato. Ma certamente, cerchiamo di diventare ridicoli da questo punto di vista. Esatto, poi certamente. Tu mi chiedi se è una bella immagine, se è bello sentire, se è stato bello sentirlo. No, non è stato bello sentirlo. No, non è stato bello sentirlo, ma neanche sorprendente. Dai. Ecco, però, siccome poi ieri a Bergamo c'è stata la guerra civile, abbiamo 22. Ma a Bergamo c'è stata la guerra civile, allora io mi ricordo quest'estate, guardate che vi curo, 800240024 e anche a voi popolo dei messaggi sms, quest'estate mi dicevano ma cosa critichi quel carro armato, era una gogliardata, ieri tutti i carri armatini di polistirolo e poi battaglia fuori dallo stadio eccetera. Una bella gogliardata, è anche quello una bella gogliardata, ma non dite stupidaggini. Ma io ho una domanda. Io mi ricordo quei bambini nel video. No, io voglio capire l'osservatorio, perché adesso, premesso che io sono sempre contrario sulle trasferte vietate, perché mi offendono come essere umano, no? Nel XXI secolo pensare che si debba vietare, no? Col bastone, si debba dire tu non puoi andare, non hai il diritto di andare a vedere la partita perché tu sei romano, romanista, non puoi andare a Bergamo, quindi per ordine pubblico, tutte queste. No, io sono contro il tifo organizzato, però. Detto questo, visto che sappiamo che in alcuni casi queste cose servono per salvare le vite e per evitare casini, ma Atalanta-Roma era una partita che si poteva giocare a porte aperte? Era una partita che si poteva giocare col settore ospiti aperto, sinceramente. E la coreografia dell'Atalanta era accettabile? No, ma poi mi dicono che quella del carro armato che schiaccia le due macchine di Brescia e Roma era una gogliardata. Poi io ricordo bene quel video, perché sugli episodi arbitrali no, ma su molte altre cose ho una memoria lunga. Ricordo bene quei bambini, a questo proposito, andate a vederlo su YouTube. Due bimbi che picchiano pugni sulle macchine, su quei rottami dipinti dei colori di Atalanta e Brescia. Per favore, non mi dite stupidaggini. No, ma tutto bene, ma tutto bene, ma non è stupidaggine. Può essere una goliardata per chi ha. No, non è una goliardata. Per chi ha spirito, intelligenza e capisce che c'è un limite. Poi, però, questo spesso diventa invece una provocazione. Sì. Una provocazione per fare casini. No, secondo me è solo una provocazione, non è una goliardata. Marco Ansaldo, inviato della Stampa. Ciao Marco. Ciao. Di cosa state discutendo? Un po' di tutto. Varie ed eventuali, compreso, dicono che sul campionato soffi il vento del nord. Ah, non sentivo parlare di gogliardate. No, parliamo di questo, dai, che è più interessante. Sì. Dobbiamo parlare del vento del nord. Parliamo di questa cosa. Dacci una sintesi della giornata, e poi immagino tu eri a Torino. Che segno rimane di questi 12.000 bambini? Più la felicità per aver visto comunque 12.000 bambini felici che si sono visti gratis una partita e erano tutti contenti, o più l'amarezza perché per quel merda o magari per certe cose un po' commerciali che si sono viste ieri? Giustamente gli sponsor fanno il loro lavoro, però insomma diciamo che non è stata soltanto una cosa spontanea, è stata anche una cosa giustamente pensata dalla Juve e poi cavalcata dagli sponsor, ma va bene, con questo non viviamo nel terzo millennio, non facciamo i puri. Insomma, volevo la tua sintesi. Ma la sintesi è che innanzitutto non si può pensare di risolvere i problemi chiudendo le curve e aprendole ai bambini, cioè per me questa è una situazione molto molto speciale che non potrà essere portata avanti all'infinito, bisogna trovare il sistema per impedire che si arrivi a questi punti qua, innanzitutto. La seconda cosa, c'è la conferma di quanto sapevo benissimo, è che i bambini imitano i grandi, chiunque sia padre, certo, lo sa. Sì. Quindi non, guarda, recentemente sono, però Marco è sempre stato così, adesso non diciamo era meglio quando eravamo più giovani, era meglio tanti anni fa, era meglio il calcio di una volta. Se posso intervenire, siccome i bambini imitano i grandi, è il livello dei grandi quello che determina certi comportamenti, perché recentemente, forse era Juve-Napoli, proprio a fianco della tribuna stampa, dove vade la gente gratuitamente, quella che ha i biglietti omaggio, c'erano due ragazzini, e anche questo è successo anche col Torino, due ragazzini che urlavano le peggiori cose. Ora, se i miei figli fossero andati allo stadio a urlare quelle cose lì, io gli fossi stato vicino e li avrei presi a schiaffi, sì, e li avrei portati immediatamente via. I genitori si univano a queste cose qua. Quindi voglio dire che i ragazzi, portare i bambini allo stadio è una bellissima idea, ma se non si arriva a creare un'educazione anche nei bambini, poi i bambini vanno lì, sanno che qualcuno grida merda quando il portiere rinvia e loro lo gridano. Sì, sì, sì, e questo è il problema. Certo, il problema è l'educazione che manca totalmente. Ma d'altra parte, Marco, tu vai a vedere una partita giovanile di qualunque sport, non sto parlando di calcio, e senti i genitori che se la pigliano con gli arbitri, i genitori che dicono tutti, vabbè, è inutile che stiamo a girarci intorno, ed è inutile anche che stiamo a sorprenderci o a fare della demagogia, secondo me. Piuttosto dimmi della Juventus, perché un mese fa, esatto, praticamente, mi sembra il 2 novembre, stavamo celebrando il record della Roma che aveva battuto, seppur a fatica, il Chievo, e stavamo parlando di un campionato rivoluzionario. Ora invece mi sembra l'inizio dell'inverno della restaurazione. Sì, probabilmente siamo stati un po' troppo. Forse sai cos'è? Che la voglia di vedere finalmente un campionato equilibrato fino alla fine ci aveva un po' illuso che questo lo potesse essere. E quindi in qualche modo abbiamo magari sopravvalutato il cammino della Roma, che non aveva avuto un calendario così difficile come la Juventus, e quindi, però devo dirti che la Juventus ha trovato innanzitutto nel momento giusto un centravanti che non ha mai avuto in questi due anni, poteva esserlo forse Matri, ma poi Matri fallì. Cioè la Juventus negli ultimi due anni vinceva le partite sempre con un certo tipo d'attacco molto veloce, palla bassa e così via, ma le partite come quella di ieri, con un Udinese chiusa molto bene, in maniera molto intelligente, faticava enormemente a vincere e non le vinceva. Ieri l'ha vinta per un colpo di testa, cioè la vecchia ricetta, la conferma, non vogliamo essere nostalgici, perché sennò qui tutte le volte che uno dice che c'era qualcosa che funzionava una volta passa, sì, per nostalgico. Sì. Però io ricordo ad esempio gli anni in cui c'era Serena nel Torino, nella Juve, nell'Inter, eccetera, eccetera, spesso quando non si sapeva che cosa fare si buttava lassù una palla alta e questo qui ogni tanto arrivava e la buttava in porta, che è un gioco molto semplice ma che la Juve del passato non poteva permettersi. Adesso con questo Llorente può permetterselo. È diventata una squadra un po' più classica. Non voleva fare quella roba lì e l'altro, certo, è... La Juventus è diventata una squadra un po' più classica, mentre la Roma secondo me sta pagando un po' dazio alla sua tipicità, soprattutto senza Totti. La Juventus è diventata una squadra più classica rispetto al passato. Marco, se sei d'accordo, dopo la borsa ti richiamiamo, così facciamo due chiacchiere anche sul Milan, sull'Inter, su Toir, eccetera, eccetera, eccetera. Pardo naturalmente sta con noi, borsa. Sappiamo che i social network sono importanti. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Convocati. Mentre adesso su Twitter scrive: domanda, mi spiegate per quale motivo gridare merda in uno stadio così disdicevole? Mentre c'è Daniela che scrive invece via sms: ieri ho portato mio figlio 7 anni allo stadio prima volta, ci è rimasto male per tutti gli insulti che ha dovuto sentire nonostante lo avessi preparato, ma il suo comportamento imita quello che vede dai genitori, non tutti i genitori sono sportivi ed equilibrati, eccetera eccetera. Ringrazio Marco Ansaldo per essere rimasto con noi, chiedo a Pierluigi Pardo un'opinione su quanto diceva prima Ansaldo, cioè una Juventus che improvvisamente da una Juventus in crisi quasi di identità di un mese fa è diventata una Juventus più classica con un centravanti vero e improvvisamente la Juventus dei record. Sì, ma io penso che vabbè, lo sai, io anche a meno 5, adesso non voglio fare quello che si loda, ma insomma anche a meno 5 secondo me la Juve è sempre stata la favorita, è la squadra più forte, proprio perché ha questa abitudine, innanzitutto ha una rosa più ampia, più profonda rispetto alla Roma, che in questo momento è l'interlocutrice più forte, più credibile, e poi perché ha questa capacità straordinaria di cogliere l'attimo, un'esperienza completamente diversa che la Roma ancora evidentemente non ha. Le ultime quattro partite l'hanno dimostrato in maniera inequivocabile. Poi tutto può cambiare, ovviamente. Io credo che ieri, dal punto di vista del gioco, la Juve non abbia fatto un passo avanti, anzi è stata una partita abbastanza sbiadita, però sono proprio queste le partite che ti danno poi la dimensione. Vincere quando sei in forma è quasi scontato. Certamente. Vincere le partite in cui giochi male è fondamentale. E fai fatica e ti imbrigliano, e Buffon fa un paio di grandi parate, eccetera, eccetera. Sono queste le partite che ti danno la misura. Prima di chiedere a Marco Saldo un parere sul compromesso storico, Dino da Modena. Buongiorno, Dino. Sì, buongiorno. Io ieri sera sono andato a vedere la partita a Torino. Sì? E prima di arrivare ai cancelli c'erano tutti questi bimbi che sembravano dei piccoli militari. Dei piccoli? Sì, dei piccoli militari, insomma, militari. In tutti in fila indiana, due o tre in fila. Beh, per arrivare ai cancelli, no? Beh, giusto. Seguiti da adulti. Sì, come giusto che sia. E durante, insomma, poi uno si ferma un attimo a prendere un caffè, guarda intorno allo stadio, si vedevano che insomma già alcuni tifosi della Juve, tifosi insomma sportivi, quello che vuoi, definiamolo come vogliamo, parlavano con questi ragazzini a incitarli a dire qualcosa, no? A un certo punto, se vi capita, ditele lavateli col fuoco. Alla fine, cioè, oggi compri i giornali e vada a vedere che viene marchiato questa M, sì, sui giornali sportivi. Io mi vergogno dei giornalisti che ripetete sta cosa. Un bimbo non gli sarebbe mai venuto a un ragazzino di dire quelle parole. Come no? Ma perché non gira per strada? Ma come? Ma Dino, ma non gira per strada? Ma non gira per, ma lei non gira per strada? Ma voglio dire, ma di cosa stiamo parlando? Ma giriamo per strada e queste cose le sentiamo purtroppo dei ragazzini. Poi è compito dei genitori, non di Balotelli, come di nuovo sottolinea qualcuno, educare sti ragazzini. Non è compito di Balotelli, nemmeno di quei coglioni che gli vanno a dire quelle cose, e neanche nostra, se lei permette, compardando la Sdamas. In uno stadio, sì. Appena uno incita una parola del genere, secondo te i bambini stanno zitti? No, non possiamo dirlo? Allora i bambini vanno educati, punto e basta. Ma non è compito né di Balotelli, né nostro, né di qualcun altro. È compito dei genitori, e se i genitori non fanno il loro dovere, questi vanno allo stadio, dicono merda, che poi lo dicono anche per strada, perché non nascondono. Nascondiamoci dove è impossibile nascondersi, non nascondiamoci dietro i vetri. Marco Ansaldo, voglio tornare a parlare di calcio invece e chiederti del compromesso storico. Sia a Glasgow che a Catania ho visto forse il Milan migliore della stagione, una convinzione, una leggerezza diverse, come se una sorta di accordo tra le parti, allenatore e giocatori intendo, fosse stato raggiunto. Ma io ci credo poco, insomma. Credo che sia magari un momento in cui alcuni giocatori del Milan, segnatamente Kakà, stanno trovando la condizione migliore, quindi essendo dei giocatori secondo me già avviati sul viale del tramonto, ma con una classe tale che anche sul viale del tramonto riescono ancora a combinare delle belle cose, quindi io penso che sia questo. Non credo che tutti questi pasticci societari abbiano influito poi su questo, anche perché devo dirti che non credo molto a questa soluzione, cioè, io e i giocatori, che forse sono anche più scafati di noi e sanno come funzionano le cose, penso che siano i primi a capire che tanto è una cosa pro tempo, e quindi non è che da questo possono avere la sicurezza che tutto è stato risolto. Credo invece che, come già accadde in fondo l'anno scorso, il Milan abbia sempre un po' troppo bisogno di un rodaggio, e poi alla fine comincia a partire. Quest'anno mi sembra che sia partito troppo tardi per rimediare fino in fondo ai disastri dei primi 2 o 3 mesi. Ne hai trovato qualcuno che crede, prima di salutarti Marco, in questo compromesso storico? Io non uno, non ho ancora trovato qualcuno che dice beh, può funzionare. Devo dire che non ho fatto un exit poll su questa cosa, quindi non, siccome è una cosa che mi interessa in maniera abbastanza relativa, perché io mi sono fatto una mia idea. Qual è? È quella che, cioè, è stato semplicemente un modo per sistemare, mettere una pezza a una situazione che creava dei problemi anche di immagine al proprietario del Milan, insomma. E quindi si è trovata questa formula. Non so Gagliani con che cosa ne sia uscito, con quanto ne sia uscito, insomma. Comunque sicuramente anche lui avrà avuto i suoi buoni motivi per accettare una situazione del genere, che fino a poche ore prima non riteneva impossibile. Mi lascia, ecco, questa devo dire, mi lascia molto perplesso che Berlusconi sia arrivato fino a quel punto lì per poi trovare questo escamotage. E la conferma che forse è molto distratto e molto preso da altri problemi, e ha lasciato perdere una cosa che invece in passato, 10 anni fa, non si sarebbe mai verificata, perché quello che ha poi fatto dopo l'avrebbe fatto prima. Marco, grazie. Prego. Ciao Marco Ansaldo. Io faccio un po' da stian contrario su questa cosa del Milan, nel senso che... Ma su cosa? Ora, sulla squadra o sulla società? No, sul compromesso, nel senso che, ribadisco, è chiaro che è un compromesso. È un compromesso a ribasso, probabilmente, dovuto più al discorso di dover uscire, di dover chiudere tutti i casini anche mediatici dei giorni scorsi. Però attenzione, perché poi ci potrebbe essere il colpo di scena, cioè ci potrebbe essere la capacità delle persone di trovare una strada che sicuramente fino a questo momento non hanno trovato. A me sembra che i giudizi sul Milan sono un po' troppo definitivi. Senti, ma sul campo come l'hai visto? Ieri l'ha raccontato sul campo a Catania. L'ho vista scarsa dietro, anche se Bonera ha fatto una grande partita. Sai che novità, eh? No, beh, però c'era un'emergenza totale, nel senso che comunque secondo me non hanno fatto neanche male. Secondo me, a parte Silvestre così, ma gli altri tre, Manuelson ha fatto l'assist sul gol dell'1-1. Bonera ha fatto una serie di salvataggi importanti. Poli, che era adattato nel ruolo di terzino destro, ha fatto bene. Però è chiaro che soffrivano, no? in tante situazioni, non è la difesa titolare. Per il resto ho visto una squadra nella quale 6-7 giocatori hanno fatto prestazione, e quindi alla fine è una squadra che ha meritato di vincere la partita, che oltretutto si era un po' incasinata dopo il gol dell'1-0. Per cui non l'ho vista male. Chiaro, stiamo parlando, con tutto il rispetto e l'amore per il Catania e per la Sicilia, di una squadra che in questo momento è ultima in classifica e ha parecchi problemi anche di autostima oltre che tecnici, quindi questo è abbastanza evidente. Però ribadisco, secondo me è un passo avanti, insomma. Poi già nel momento nel quale il Milan, già aver vinto due partite fuori casa in questo modo, è importante. Sì. Io credo che Milan-Ajax sia una partita complicata, invece. Anch'io faccio il passo al contrario io. Una partita che il Milan deve giocare con la massima attenzione, perché i fantasmi secondo me sono dietro l'angolo. Il Milan adesso sta uscendo dai problemi, ma occhio, perché i fantasmi sono dietro l'angolo. Ma manca ancora un po', io ti ripeto, e su questo il bastian contrario lo faccio io con il Celtic. E ieri a Catania ho visto un Milan con un body language diverso rispetto al recente passato. Magari mi sbaglio, magari è un effetto ottico dovuto alla deformazione televisiva o alla voce di Pardo. Pensa che c'è chi mi scrive, che dandomi dell'ignorante, che educare i bambini è compito di tutti. Va bene, ok, compito di tutti, compreso Balotelli, gli Ultra, Pierluigi Pardo, Marco Ansaldo e Antonio dalla provincia di Venezia, che interverrà subito dopo il traffico. Noi non abbiamo sentito dire Spolli un insulto razzista, l'abbiamo sentito quello che ha riportato Balotelli, quindi lui ha detto che gli hanno detto negro di, però noi non abbiamo certezze su Spolli. Convocati. Marchisio va al cross, Pogba cerca di prolungare, Lichtsteiner, deviazione, rete, Juventus in vantaggio. La deviazione determinante di Llorente. Game over, la Juventus batte 1-0 l'Udinese, una partita sofferta. Ecco il cross, il colpo di testa di Rolando, raccoglie ancora Renan, occhio al suo sinistro, Renan, è il pareggio della Sampdoria al 44esimo minuto, con il gol, il primo in Serie A di Renan. Ljajić cerca spazio, Ljajić aria intasata, la palla passa, la deviazione, il gol della Roma con Strootman che trova il pareggio all'ultimo minuto, il gol di Kevin Strootman, 1-1. Avrà apprezzato Pierluigi Pardo la sigla di ultimo minuto, eh? Sei grande qualità, eh? Zona Cesarini, tu come dici quando c'è un gol all'ultimo minuto? No, io non minuto? Dico. Non dici. Dico all'ultimo respiro. All'ultimo respiro. Dipende, insomma, da quello che viene in mente. dipende da come viene. Antonio? Buongiorno. Lei come dice, zona Cesarini? Forza Roma, forza Roma, forza, forza Roma. Lupi, sono finiti i tempi cupi. No, ma guardi, due cose, non voglio fare polemica perché la polemica gliela... Ma la faccia, guarda, adesso sta arrivando un ospite, un amico che vedrà che la fa. Sì, ma no, aspetti un attimo. Dica. Allora io dico, cioè, ma allora è tutto calcolato. Lei, oggi siamo il giorno 2 dicembre, ore 14:48, così dice il navigatore satellitare. Esatto. Registri da questi appunti. Lo scudetto si deciderà nei due scontri diretti. La Roma è nettamente più forte della Juve, batterà la Juve. Questi quattro pareggi sono solo e soltanto, come dire, sono niente. Cioè la Roma, niente. La Roma è guidata da uno che arriva in Italia e dice: abbiamo rimesso la Chiesa al centro del villaggio. Ma si rende conto che ci stiamo parlando, cioè, di un uomo che sta guidando una squadra, ma che sta in un altro pianeta, cioè si fidi, la Juve non è nulla, la Juve non è nulla nei confronti della Roma. Juventus is nothing, è Antonio dalla provincia di Venezia questo che parla, tifoso della Roma. Juventus is nothing e Garcia di un altro pianeta dice: ha riportato la Chiesa al centro del villaggio, ma aveva detto qualche tempo fa anche un'altra cosa. Non ho visto, lo vedo adesso, però per me è così. Gli allenatori si sbagliano, i giocatori si sbagliano, anche gli arbitri. Gli arbitri è un fatto di gioco, però non cambia niente. C'è una cosa forse interessante, di guardare la classifica senza errori d'arbitri. Questo sarà una cosa divertente. Allora io a Paolo Liguori, che saluto e ringrazio. Ah, buonasera. Buonasera. Leggo la classifica, che è una cosa italiana. La classifica al netto degli errori arbitrali: Roma 38, Juventus 33, Fiorentina 28, Inter 26, Milan 23, Napoli, Torino, Verona 20, Udinese 18, via via tutte le altre. Catania sarebbe ultimo con 7. Beh, ma è una classifica virtuale, quella reale è quella che c'hai sotto gli occhi, e invece vede 3 punti di differenza a vantaggio della Juventus, quindi noi stiamo sereni, tranquilli, 3 punti sotto la Juve, guardiamo con attenzione le altre e questo è tutto. Poi gli errori arbitrali io non credo che siano errori né malafede, guarda, è strano, perché non sono né errori né malafede, è proprio un atteggiamento psicologico. A un certo punto la Roma ha esagerato ed è partito un movimento, come si dice, è un movimento inconscio di riduzione della Roma. È cominciato a Torino, guarda, non è a caso, a Torino e col Torino. Torino ha pareggiato su un gol, secondo me, molto discutibile, ma la cosa più grave è che perfino le grandi televisioni si sono dimenticate in diretta di far vedere quel rigore su Pjanic, che poi hanno dovuto far vedere nel replay. E l'hanno fatto rivedere, ed è il più clamoroso di tutti gli episodi. Allora lì io ho capito che c'era un movimento per ridimensionare la Roma, perché Garcia una cosa la deve imparare, che lui porta la Chiesa nel centro del villaggio, la Chiesa è la Roma, ma il municipio è juventino. Metà degli italiani sono juventini, gli arbitri non sbagliano e non hanno cattiva fede. Metà di loro sono intimamente juventini, e comunque quando la lotta è Roma-Juventus, sotto, ma io li capisco anche, parteggiano con la Juve, no? Sono tutti juventini, Pardo, ricordatelo. Sono juventini, ma sono così, lo sanno. Dice: ma perché dobbiamo far vincere una squadra rispetto a un'altra? Ma questo rigore, 4 partite, 4 episodi arbitrali. Quello di ieri è clamoroso, quello di Torino era clamoroso. Fa la differenza, quando finisci 1-1 fa la differenza. Quello che tutti hanno notato meno è quello col Cagliari, perché cioè, hanno notato le grandi parate, però Ljajic è stato ammonito per simulazione, quello era rigore, e perfino col Sassuolo è discutibile l'azione nella quale ha pareggiato Berardi. E però, quindi insomma, la classifica, insomma, è, tutta la classifica è in difetto. No, la classifica è giusta quella che c'è. È giusta quella che c'è. Pardo, cosa dici? Pardo. No, io vorrei capire invece tecnicamente che idea ti sei fatto, Paolo, della Roma di queste ultime partite. Solo... Tecnicamente io ho visto queste ultime quattro partite, mai la Roma ha subito gli avversari, cioè un po' di più l'ha subito. Ieri nel primo tempo a Bergamo era tra l'altro un campo difficilissimo, ma poi nel secondo tempo si è ampiamente rifatta. Nelle altre partite non ha mai subito l'avversario, ha sempre fatto la partita bene. I giocatori sono un po' stanchi, sia fisicamente che dal punto di vista nervoso, perché quando tu dai tutto e c'hai il risultato, alla fine esci riposato. Quando tu dai tutto e non hai il risultato, esci stanco. Questo nel calcio ci sta, e ci sta anche nel calcio che in certe partite ti vanno tutte bene e in altre ti vanno tutte male. Poi ci sta che gli arbitri hanno questa coscienza juventina profonda. Ma sapete, in Italia, devo dire, voi lo sapete benissimo, ma meglio di me. Quindi, c'è Marco che mi scrive, ma con Inter e Napoli stessa indignazione? No, con Inter e Napoli è andata bene. Con Inter e Napoli abbiamo fatto due partite sontuose, potevamo farne cinque all'Inter, ne potevamo fare anche di più al Napoli, e mancavano sia Totti che Cervinho, quindi che nessuno si lamenti, per carità, perché la Roma quello che ha preso è più che suo. Devo dire, quando vi dico questa cosa, comunque, degli arbitri, ma voi lo sapete, poi è una cosa di cui in Italia non si vuole discutere, gli arbitri in Italia non sono professionisti, sono dilettanti. E in quanto tali, in realtà, dipendono molto, molto strettamente da chi gli fa gli ingaggi, chi li mantiene e chi gli dà lavoro. Se fossero professionisti, come sono in tutti gli sport a livello del calcio italiano, in tutto il mondo, anche, allora sarebbe diverso, perché un arbitro che fa, cioè, Banti, Celi, Giacomelli, D'Amato, ma chi sono, insomma, chissà che lavoro fanno, che lavoro faranno. Se faranno le assicurazioni, se venderanno auto, io non lo so. Comunque, grazie direttore, devo salutarti e devo salutare anche Pardo che deve andare a preparare Tiki-Taka stasera, e Barzagli stasera. Poi ti dico solo Barzagli, Federica Pellegrini, Matteo Renzi, Mughini, Auriemma collegato Lazio-Napoli ovviamente, tutte le immagini, Fiorentina-Verona, e poi Dalai, e poi l'Abate, e poi Melissa Satta in dolce attesa, stasera faremo, sì, ovviamente ho letto. La seguiremo con grande garbo, faremo delle analisi. Fai bravo, Pierluigi, ti licenzio. Vabbè, ciao belli. Ciao, Pier, a domani. Ciao.